Allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. Date, ma forse in persona. Parla sommesso, e te lo riconobbi. Egli è certo un uomo di coraggio, perché venirvi solo e ancora così tarda. Grande solen, così teme qui si voglia vendicar la valli. Poi va, pazzie, però non si sa mai. Vanno a dormir lontano, ma la notte è questa. Non mi si piglia. Yeah. basta per stanotte non ha nulla a temer domani la perdirò

vecchi odiarti, ma il mio cor mi amava. Quanto a sola vera, provocatrice balda come apparisti, io la credetti una sfida crudele, pur già lottavo con l'incanto della tua persona, che dolce rimette me creva a sé. Lo credi balli, inebriato e pazzo, che vive lui, che vive io fui, ma il vato è chi fesi, ero voto d'amor. Abisso mi perdetti. Non Dio! Un uomo! Io avevo un tempo che... E ben fallì! Questo crude io avevo detto uccidi! Vieni, vieni, una placida vita, noi vivremo in un mondo ignorato, peregrini, una piaggia. tuo silenzio, la morte laggiù.